Ogni giorno, all'ora sesta, alza la testa. Minchia che poeta. Sesta, alza la testa. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Allora sesta, alza la testa. La fa chi balla, balla. Chi non si muove è una palla.

Questi sono i passi del cammino di Gigi D'Agostino. M2O, musica allo stato puro. Ogni giorno, all'ora sesta, alza la testa. Chi è che poeta? cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante, un grande cerchio che unisce i mondi, un cerchio magico di occhi che brillano. Stai attraversando il suono di Gigi D'Agostino. Attraversando il suono di Gigi D'Agostino. D'Agostino, non siamo al reparto olive. Non è che siamo qui a stracciolare. Oh già già. We'll be right back.

Se non ti piace così la storiella, scrivila tu, magari più bella.